Alta voce. Patrizia Zappa Mulas legge I padri lontani di Marina Jarr. Decima puntata. Una volta all'anno, in occasione del 17 febbraio che celebrava l'emancipazione civile concessa ai valdesi da Carlo Alberto nel 1848, si recitava nel teatrino del collegio un dramma storico, il cui argomento era un episodio delle imprese di nos pères, di nostri padri. Gli attori erano per lo più studenti del liceo, non rammento il nome degli autori. I drammi erano recitati in costume, il testo era italiano, i valdesi erano virtuosi, i cattolici cattivi, il re così così. Però i cattolici erano, a quel che ricordo, esclusivamente la gerarchia, preti, vescovi, malvagi consiglieri e comandanti che con l'aiuto di Dio venivano sconfitti. Non c'era gente comune, tutt'al più sbirri muti. Andavo pazza per questi spettacoli, sopperivo in me stessa alla mediocrità del testo e della resa teatrale. Quando, seduta nella sala piena di gente, aspettavo che si alzasse il sipario, dietro la tenda rossa, sul piccolo palcoscenico, mi stava davanti l'avvenimento dell'anno. Per alcuni giorni dopo mi aggiravo per la casa come una sonnambula. Mi capitava di ritrovarmi nel gabinetto a mezza scala con in mano il piatto del burro che avrei dovuto portare in cantina. Pensavo e ripensavo a quel che avevo visto, lo mescolavo e integravo con le mie fantasticherie, e se davo spettacolo in soffitta con le mie bambole per uno scarso pubblico, mia sorella e poche amiche, intuivo l'inadeguatezza della mia recita, la differenza tra quel che avrebbe dovuto essere e invece era. In quegli anni presi l'abitudine di copiare per ore in grandi disegni bianchi e neri figure di quadri e di sculture. Alle lezioni di pittura a cui andavo per uno degli atti di giustizia di mia madre, mia sorella andava a lezione di canto, mi insegnavano a decorare orribili vasetti. Io avrei voluto imparare a raffigurare la persona nei suoi movimenti. Uno spettacolo del 17 febbraio offrì, tra l'altro, lo spunto per la peggiore punizione ricevuta nella mia adolescenza, peggiore dei ceffoni, che pure mi umiliavano molto, peggiore delle allusioni taglienti ai miei difetti fisici e morali. Quell'anno, qualche giorno prima del 17 di febbraio, in una discussione con la nonna, i litigi tra noi diventavano sempre più frequenti, le risposi. I valdesi avevano risposto per secoli, ma in famiglia non si doveva rispondere, né più né meno che nelle vicine valli cattoliche, alla Fiat o al Vigile. Le mie risposte miglioravano di anno in anno, mettevo in campo repliche sempre più agili, mi stimolava la crudeltà della nonna stessa e una certa avidità di mordere che avvertivo mentre mi allungavo un po' gobba, ma incominciavo a mangiare volentieri. Dentro di me si stiracchiava una voglia buffonesca di imporla la mia inferiorità, di trasformarla, e di nuovo mi venivano in aiuto le parole che già da bambina mi erano servite per le mie bellissime bugie. Quella volta di certo mi riuscì la risposta perfetta, perché la nonna ne rimase così allibita che si ritirò in camera sua, dove si mise a gemere in franco provenzale. Gemeva ad altissima voce, aveva perfino aperto la finestra nonostante la stagione, e io, che mi ero rifugiata dietro il pollaio, ero molto spaventata per la riuscita della mia battuta. La sentivo gemere attraverso l'orto illuminato dalla luna piena, ma non mi chiesi neppure se stesse male davvero. Sottintendevo che fosse una commedia e che approfittasse della luna piena come d'un faro per scoprirmi, nascosta e colpevole, dietro il pollaio. Su quella mia risposta, la nonna mi proibì di vedere la recita del 17 febbraio. Ne fui annichilita. Mi abbassai a supplicarla, rimangiandomi sotto le occhiate sprezzanti di mia sorella non solo la risposta in questione, ma anche quelle passate e future. La nonna fu inflessibile. Però quel mio tragico 17 febbraio fu, per grazia del Signore, anche l'occasione dell'unica e fondamentale intuizione pedagogica avuta dalla nonna nei miei riguardi. Rinunciò anch'essa alla recita, che pure le piaceva molto, e passeggiò con me avanti e indietro su via Beckwith tra la gente che si affrettava verso il teatro. Attraverso un velo di lacrime piangevo senza vergogna sulla pubblica via, guardavo i fuochi accesi sul Vandalino e sulla collina di Rorà e presentivo che nulla avrebbe mai potuto sostituire lo spettacolo che non avrei visto quella sera. Ma la decisione della nonna mi colpì molto e me ne ricordai sempre. Restando con me, essa si sentiva parte della mia colpa, non si vendicava di me come spesso mi era parso facesse, ma portava con me il mio peso. Era di solito un'educatrice capricciosa e autoritaria che sembrava voler imporre più la sua persona che una norma generale di condotta. Era anche impietosa, fuorché in sporadiche e inaspettate occasioni. Di sé amava raccontare i torti subiti, mentre raccontava del suo grande amore, un giovane cattolico bellissimo che la madre, ugonotta, non le aveva lasciato sposare. Lui aveva poi fatto il capostazione a Bricherasio e lei lo vedeva passando dai finestrini del treno. E lamentava le offese patite dalle cognate angrognine, gli occhi le si riempivano di lacrime, ma subito dopo, ripetendo una sua battuta ben riuscita, rideva di nuovo. Era pronta al riso e al pianto, il che li rendeva entrambi fugaci e dava l'impressione che fosse, tra un riso e un pianto, una donna sempre presente a se stessa e molto sicura di sé. Parlava del nonno, sempre con le lacrime agli occhi, e tu sei, io ero allegra e lui sempre triste. Oppure, accennando alle pretese coniugali di lui, più anziano di lei di una decina d'anni, quando entrambi non erano più giovani, con un rapido pianto mi diceva: è stata dura, sai. Quando mi vennero la prima volta le mestruazioni, ero scesa con un salto dal muretto in fondo al prato e subito dopo mi ero accorta di avere del sangue nelle mutandine. Ero corsa su in casa. Lei stava nella sua camera da letto. Le spiegai, ero soddisfatta, che cosa mi era successo e lei aprì l'armadio e da una pila, evidentemente già pronta, prese un pannolino di lino, me lo diede, mi insegnò a indossarlo con spilli di sicurezza, poi con improvvise lacrime negli occhi mi disse: «Ebbien, ma povo, si comincia». Coltivava con passione il suo giardino e il suo orto. Ancora a 80 anni si alzava alle 6 del mattino per zappare. Amava i fiori quanto gli asparagi. In ogni angolo del soggiorno c'erano vasi di fiori messi a caso senza particolare ricerca. In inverno non c'era nulla. Non ricordo un mazzo di fiori comperato e meno che mai un albero di Natale o un ramo di pino. Ritornava dal mercato con la borsa della spesa e un pollo vivo legato per le zampe. Lo sgozzava lei stessa sul ruscello. Ricordo il brevissimo grido gutturale della bestia, come scuoiava i conigli. Curava benissimo i malati. Curò con perizia il nonno durante la sua ultima grave malattia. Non la rammento mai spaventata, perciò non la riconobbi nella bara. Aveva sul volto un'espressione di paura e di sorpresa. La nonna non credeva di dover morire. Amava viaggiare, era venuta a trovarci a Riga con il velo vedovile sul cappello, usciva volentieri, non mancava una predica domenicale, anche perché, ritornata a casa, mentre mangiavamo il suo ottimo arrosto, ci poteva servire la satira del sermone. Non le sfuggiva una parola dimenticata, un balbettio, una ripetizione. Al suo funerale il pastore rammentò lo spirito un po' secco della nostra cara parrocchiana. Ma lo spirito della nonna era tutt'altro che secco. Diceva al nonno, a cui piacevano le uova ma che detestava le galline e non voleva incontrarne sul suo cammino: tu vorresti che le galline fossero solo il loro buco. A proposito del nonno, la divertiva molto ricordare che una donna di Angrogna, ogni qualvolta lo incontrava per la strada, faceva gli scongiuri. Interrogata dalla nonna, costei aveva rivelato che il nonno, professore al collegio, direttore del locale Eco delle Valli, giudice di pace, membro di una società di difesa della lingua francese, apparteneva a una famiglia di stregoni. «Il sonné Angrognan», diceva la nonna degli Angrognini, «sono nati in Angrognan, dove Grognier è insieme brontolare e ringhiare». In casa se non in cucina, dove cucinava benissimo, in un numero inverosimile di pentole e pentolini che qualcun altro lavava, la nonna stava in una poltroncina davanti al suo tavolinetto di lavoro, venuto anch'esso dalla casa della bisnonna, con i cassetti pieni di fili. Qui, nel calore estivo, talvolta si addormentava con gli occhiali sulla punta del naso, poi si svegliava e lavorava a maglia o rammendava leggendo romanzi. Era un'accanita lettrice di romanzi rosa. Aveva già 65 anni quando arrivammo a Torre Pellice, ma non mi apparve mai vecchia. Visse da sola fino alla sua morte, poiché non c'era cosa che non riuscisse a fare se intendeva farla, o giudizio che non osasse esprimere. Quando non capiva bene un libro, era il libro che era stupido oppure buffo. Era un iconoclasta, diceva di lei mia madre, che non le perdonava di non riconoscere il valore dei raffinati regali che le portava. La nonna metteva tutto sullo stesso piano, il vestito di cotonina e lo scialle prezioso. Aveva venduto al Robivecchi le medaglie del proprio padre volontario con Garibaldi e il magnifico letto di noce ereditato dai genitori. Per lei erano tutte anticaglie. Aveva bruciato pure, nella stufa, diceva mia madre, parecchi libri della biblioteca del nonno. Che potevo replicare io, che a 16 anni avevo bruciato nello scaldabagno a legna la mia Bibbia, strappandone le pagine una a una, immersa poi nel bagno di tutti quei versetti, come nei bollori dell'inferno, sentivo la nonna di là dalla porta chiamarmi: «Ma tu è folmina! Ma sei matta, minà! Se finì!» rispondevo io, già pentita in realtà, non per il gesto così appropriato nel nostro teatrino domestico, quanto piuttosto per la perdita definitiva della mia Bibbia. Queste mie battaglie con lei, interlocutrice della mia adolescenza e parafulmine, non certo volontario, di mia madre, non furono battaglie con un angelo, una presenza ultraterrena che ti assale nel dormiveglia di un'alba incerta e non sai se è dall'esterno con una spada fiammeggiante o se nel tuo intimo con uno stiletto nascosto. La nonna era una persona tutta intera, corposa e carnosa come il diavolo Barbetto, e ben diversamente da Giacobbe non uscì invalida dallo scontro, anzi ne venni fuori rafforzata, come se quel nostro teatrino domestico mi avesse spurgata, senza che allora me ne accorgessi, di certi umori amarognoli, di certi calcoli maligni. Da vecchia vorrei avere un orto dove cogliere i miei pomodori e gustarli ancora caldi di sole, proprio accanto al picciuolo dove sanno di frutto e di ortaggio insieme, e mangiarli con il pane, il buon pane crostoso di Torre Pellice, il migliore del mondo. Non sono andata che di rado al cimitero dove c'era la tomba della mia famiglia materna, accanto al cancello d'entrata. Con la nonna ci andavamo talvolta a portare fiori, soprattutto perché i cattolici, passando, non avessero da ridire sulla nostra tomba spoglia. Doveva far parte degli antichi usi valdesi un'ostentata indifferenza, forse uno dei tanti esempi da dare ai cattolici, verso il culto dei morti. Noi comunque si andava un po' clandestini a portare fiori al cimitero. All'occorrenza la nonna non temeva di essere eterodossa. Mentre lavavo il vaso e cambiavo l'acqua, tremavo, perché l'odore dei fiori marci mi portava a pensare a quelli che erano sotterrati tutto intorno, e inoltre temevo di trovare una volta magari uno scheletro sul mucchio di rifiuti fuori dalla cinta. Sistemati i fiori, ci incamminavamo in un giro tra le tombe. La nonna, passeggiando, si fermava e commentava chi ci stava dentro o stava fuori, che cosa aveva detto o fatto. Io non ricordavo nulla. E perché al solito indifferente a parentele, matrimoni e beghe, e perché spaventata. Ricordo solo il racconto della traslazione del vecchio cimitero che si trovava una volta davanti al cinema dove c'è adesso il giardino pubblico, e più in particolare l'episodio di una vecchia signorina, mi pare si chiamasse Gonnet, che con l'aiuto della serva svuotava la tomba di famiglia. «Tien», diceva, prendendo un femore, «questa deve essere lo zio Eugenio», e lo buttava nel grembiule allargato della donna. «E questa è certamente la testa della povera Marie, aveva una testa così piccola!» Delle nostre visite al cimitero mi rimase a lungo un'antipatia per i pavimenti di marmo e una completa indifferenza per la sorte dei corpi. Non associavo il morto con il vivo che era stato, anzi lo trovavo, come dire, ingombrante il morto, disturbatore, con un che di maligno sul volto, quasi avesse appena giocato un tiro all'altro, al vivo, sostituendosi a lui con mossa disonesta. come se mentre viviamo crescesse con noi il nostro morto per sorprenderci a un tratto e impossessarsi di noi. Fantasie che alla nonna non sarebbero certo andate a genio. Diceva spesso che il cimitero che le piaceva di più era il vecchio cimitero cattolico dietro la chiesa, sulla strada che sale al forte. Sull'entrata, ricordava lei, stava infatti scritto: qui non ci sono né poveri né ricchi. Era fierissima di essere nata il 14 luglio e lo rammentava sempre. Per quanto benevolmente disposta, era critica verso gli altri protestanti, li riteneva spesso un po' esagerati e chiamava l'esercito della salvezza, che aveva una sede fiorente a Torre Pellice, l'armée du chahut, con un gioco di parole tra chahut, chiasso, e salut, appunto, salvezza. Quando suo figlio Robert, fratello minore di mia madre e suo preferito, lo trovava più buono della figlia, il che voleva dire soprattutto più arrendevole, aveva sposato una cattolica olandese ad Amsterdam, dove egli era impiegato al consolato italiano, la nonna era stata contenta del matrimonio e aveva ben accolto la nuora, però ci teneva che il loro bambino fosse battezzato Valdese, forse soprattutto per rispetto alla memoria del nonno, come lo ero stata io, figlia di un ebreo. E, mi disse poi, aveva fatto giurare il figlio sulla Bibbia di famiglia di non aver ceduto al nemico. La Bibbia, collocata su un tavolinetto in un soggiorno, veniva adoperata di rado. Una volta che il pastore in visita, era già morto il nonno, l'aveva chiesta, era uscito un ragno spaventato di tra le pagine, sfogliate dalla nonna solo quando non si sentiva bene, faceva cioè indigestione, il che non accadeva spesso. Il giuramento era tuttavia considerato atto gravissimo, quasi disdicevole, e la nonna deve esservisi decisa per un motivo sentito come davvero essenziale. Quando la nuora cattolica si rivelò in seguito debitamente perfida e disonesta, la nonna lasciò in eredità alla figlia il piccolo prato, il mio prato, residuo della sua dote, provocando una serie di complicazioni legali che mi toccò sciogliere ben 30 anni dopo. Infatti, se comune era la storia che ci guardava dalle montagne, le eredità erano puntigliosamente divise. Io ho ancora di una divisione ereditaria un grande lenzuolo tessuto a mano in quella impossibile misura calvinista e montanara che non si adatta né a un letto a una piazza, né a un letto a due piazze e neppure proprio bene a un letto a una piazza e mezzo. Quanto allo zio Robert, aveva dovuto scegliere a chi arrendersi e il suo figliuolo era stato effettivamente battezzato cattolico. A lui adulto qualcuno a Torre Pellice osservò: un coso un cattolico, e non soggiunse altro. Persecutoria com'era la nonna nelle sue critiche e battute e battagliera nelle sue azioni, era però singolarmente tollerante verso le nostre amicizie. Aveva, è vero, un fiuto infallibile per le mie infatuazioni, che commentava a tavola in modo icastico e malevolo. Però ci lasciava libere di giocare per ore fuori dal cancello, giù per i prati verso il Pellice, che in estate attraversavamo saltando di sasso in sasso. Da più grandi facemmo gite in montagna e in bicicletta, imparai buona ultima ad andarci, e pedalavamo in gruppo giù per la valle verso Bricherasio e Pinerolo. Coetanei e coetanee venivano a trovarci in casa. Patrizia Zappa-Mulas ha letto I padri lontani di Marina Jarr. A cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.